sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Grecia e Merkel, le borse vanno a picco. In occasione della relazione annuale, il presidente Consop Vegas mette in guardia: la dittatura dello spread vanifica la democrazia. Inflazione stabile ad aprile, in un anno però il prezzo della benzina è volato del 21%. Terrorismo, almeno 400 obiettivi a rischio, ma non impiegheremo più militari, dice il ministro Cancellieri. Casa Orlandi aperta a Roma, la tomba di De Pedis. GR24, ben ritrovati da Alessio Maurizi e dalla redazione, in una giornata dove i mercati finanziari sono ancora una volta protagonisti negativi, sotto pressione a causa delle elezioni in Germania e della crisi greca. A parlare è stato il presidente della Consob, l'autorità di borsa italiana, Vegas, che ha messo in guardia proprio da quella che ha definito la dittatura dello spread. Partiamo proprio dalle parole di Vegas, andiamo a Piazza Affari con Simone Spezia, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio e buongiorno agli ascoltatori. Una relazione scarna di una ventina di pagine, quella del presidente della Consob Vegas, nella quale ha fondamentalmente affrontato due argomenti che poi si intrecciano: quello dei mercati e quello dei problemi economici d'Europa, problemi economici che naturalmente sono anche dei problemi politici. Dunque io inizierei proprio da questa parte, sentendo le parole che ha detto lo stesso Vegas e che già citavate poco fa nel titolo. Le nostre paure sono sintetizzate in un numero che oggi è rappresentato dallo spread. In molti paesi europei va crescendo l'insofferenza nei confronti della dittatura dello spread, vista come ostacolo alle aspirazioni dei popoli. I cittadini non accettano di pagare per scelte su cui non sono chiamati a decidere. Questo quindi Vegas su questa frase che insomma sta circolando parecchio, che è quella della dittatura dello spread. Come si diceva, naturalmente i temi che ha affrontato sono anche quelli dei mercati, della necessità di mettere un limite all'innovazione finanziaria che brucia i risparmi delle famiglie. E però più in generale, rivolgendosi nella parte finale del discorso alle autorità, ha dato una nota di ottimismo. È soprattutto il tempo di ritrovare la voglia di ripartire e di sentirsi orgogliosi cittadini di un'Europa che nella faticosa ricerca del bene comune fuori da ogni contrapposizione rappresenta pur sempre il maggiore centro di civiltà e benessere nel mondo. Allora, se ciò avverrà, potremo riuscire a cogliere quel raggio di sole che inizia a far capolino tra le nubi di un cielo ancora oggi plumbeo. Ed è tutto, da te la linea Alessio. Grazie, dunque Simone Spezia, queste le parole del presidente della Consob a Piazza Affari questa mattina. Allora andiamo sui mercati finanziari, dove come dicevamo pesano le conseguenze del voto in un land tedesco con la sconfitta del partito di Angela Merkel e anche lo stallo della Grecia. Ritroviamo Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno, cominciamo con il dittatore citato da Vegas, lo spread che questa mattina è volato a 431 punti base sulla scia dei rinnovati timori politici che stanno investendo tutta Europa, in primo luogo per la situazione greca che si fa sempre più critica, visto che ormai gran parte del mercato dà sempre più per scontata l'uscita di scena dall'area euro, appunto da parte di questo paese, e il ritorno alla dracma. Pesano anche i risultati elettorali politici in Germania, dei quali parlerete più tardi. In ogni caso, tutte condizioni che questa mattina hanno fatto aprire in maniera piuttosto negativa la seduta in borsa. Si sta mantenendo su questi su questo andamento, perché Milano perde il 3%, Londra meno 1,89%, Francoforte in ribasso del 2,19%, abbiamo un calo per quello che riguarda Parigi del 2,54%, oltre 3 punti di ribasso anche per la Spagna. Il dittatore, lo spread, dicevo, ha oltre su valori appunto piuttosto elevati. Per quello che riguarda il rendimento, si è divaricato così perché i titoli di Stato tedeschi appunto sono arrivati al minimo storico, all'1,47%, parliamo del Bund naturalmente a 10 anni, ed è anche questo un fattore che ha determinato appunto questa forte amplificazione. Questa mattina c'è stata anche un'asta di titoli di Stato italiani, BTP a 3 anni con scadenza appunto marzo 2015, 3 miliardi e mezzo di euro collocati senza problemi, con un rendimento peraltro peraltro anche stabile, per cui da questo punto di vista abbiamo maggiore serenità, ma oggi la borsa va invece in direzione completamente contraria. È tutto. Grazie Deborah Rosciani, come da te anticipato parleremo più avanti, andremo a Berlino e ad Atene per capire in chiave europea la situazione di questi due paesi. Adesso invece restiamo in Italia e sempre per la pagina economica parliamo dell'inflazione, stabile ad aprile secondo l'Istat, ma i prezzi della benzina sono volati in un anno addirittura del 21%. Resta stabile il tasso di inflazione che ad aprile è al 3,3%, stesso valore già registrato sia a marzo che a febbraio. Lo rileva l'Istat confermando le stime e indicando un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,5%. Ma sempre ad aprile il rincaro dei prodotti acquistati con maggior frequenza, dal cibo ai carburanti, il cosiddetto carrello della spesa, è al massimo dal settembre del 2008 e la corsa dei carburanti è al top dal maggio del 1983. Ad aprile il prezzo della benzina aumenta su base annua del 20,9%, in forte accelerazione rispetto al 18,6 di marzo, mentre su base mensile sale del 3,2. Rispetto ad aprile 2011, i maggiori tassi di crescita interessano gli alcolici e i tabacchi, più 7,8%, i trasporti, più 7,4%, e poi abitazione, acqua, elettricità e combustibili, a più 6,9. Il rincaro più contenuto riguarda la divisione ricreazione, spettacoli e cultura, più 0,6%. I prezzi delle comunicazioni, dei servizi sanitari e le spese per la salute risultano invece in flessione, rispettivamente a meno 2,1% e meno 0,2%. Tra le città italiane che registrano gli aumenti più elevati rispetto ad aprile dello scorso anno troviamo Venezia più 4,1 e Trieste più 3,9. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in diretta le parole di Angela Merkel da Berlino, il cancelliere tedesco, ve le leggiamo così come le riportano le agenzie di stampa in questi secondi dopo la sconfitta elettorale di ieri di cui abbiamo in parte parlato. Ieri è stato un giorno amaro, con una sconfitta amara e dolorosa, ha detto così aprendo il suo discorso la cancelliera tedesca Merkel, ne parleremo più avanti. Cresce in Italia il livello di attenzione e sorveglianza per il rischio terrorismo dopo quanto accaduto lunedì scorso a Genova con l'attentato al dirigente Ansaldo Adinolfi. Non ci sarà però un incremento di uomini dell'esercito impiegati in chiave antiterrorismo, ha detto oggi il ministro dell'Interno Cancellieri. In base ad una prima ricognizione sarebbero non meno di 400 i nuovi obiettivi considerati a rischio dopo il ferimento di Roberto Adinolfi. Il numero esatto si dovrebbe conoscere giovedì, giorno nel quale si terrà la riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato al Viminale per fare il punto sul nuovo allarme terrorismo. Dopo la rivendicazione dell'agguato al manager di Ansaldo Nucleare da parte della Federazione Anarchica Informale, istituzioni e forze dell'ordine temono una ripresa dello spontaneismo armato. Difficile però al momento controllare tutti gli obiettivi sensibili, vista la scarsità di uomini e risorse. Il ministro dell'Interno, Cancellieri, oggi ha comunque fatto sapere che non verranno utilizzati altri militari dell'esercito. Si procederà invece razionalizzando l'utilizzo degli oltre 4.000 militari già impiegati oggi con compiti di sorveglianza, compiti per i quali potrebbe anche essere chiesta una collaborazione alle grandi aziende considerate a rischio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sciopero simbolico di due ore oggi a Ansaldo Energia a Genova, ma anche nelle aziende liguri del gruppo Finmeccanica. Lo hanno proclamato unitariamente i sindacati per dire no al terrorismo e in segno di solidarietà con l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Fuori dallo stabilimento di Ansaldo hanno parlato ai lavoratori anche Sabina Rossa, figlia di Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse, e l'ex segretario della CGIL Epifani. Sentiamo l'onorevole Rossa ai microfoni di Cristina Carpinelli. Ho ascoltato come, che clima si respira, che quali sono le loro preoccupazioni, qual è insomma il clima che si respira dentro l'azienda, dentro la fabbrica, e devo dire che ho trovato da parte dei lavoratori, da parte degli operai una grande responsabilità, no? Una responsabilità forte, coerente dei lavoratori Ansaldo, in coerenza con quella che è anche la tradizione del mondo produttivo e operaio, che rappresenta da sempre un baluardo democratico, rappresentato da sempre un baluardo democratico contro il terrorismo, e nonostante questa sia una fase storica difficile. E protestano anche gli operai Fiat di Termini Imerese e dell'Indotto, che manifestano per chiedere il rilancio della fabbrica, certezze per gli esodati. Due agenzie bancarie di Unicredit e Intesa San Paolo sono state occupate in una iniziativa simbolica compiuta questa mattina in modo pacifico. E ora parliamo di calcio, perché è stata messa la parola fine anche sul campionato di quest'anno. In studio con noi Carlo Genta. Carlo, i festeggiamenti della Juve, ma anche l'addio, anzi forse di più di questo si parla, dei molti campioni. Guarda, ero indeciso sul titolo di A Tempo di Sport di oggi. È stata la domenica degli scudetti, ma anche la domenica dei fazzoletti. Quale preferisci tu? Ma io forse quella dei fazzoletti. Quella dei fazzoletti. Mi sembra un po' meno forse interessante, mi perdoneranno gli Juventini. Anche, no, ma la Juventus doveva solo festeggiare, poi c'è stata la vicenda dello scudetto inglese di Mancini acchiappato in quella maniera molto, molto romanzesca. Fosse stato una storia italiana, oggi probabilmente saremmo tutti in fila davanti all'ufficio indagini. Ma comunque questi sono discorsi che faremo dopo. La domenica dei fazzoletti si diceva. Ieri struggente l'addio di Del Piero alla Juventus, anche in questo caso da grande sceneggiatore o da libro, con il gol segnato nella porta dell'Atalanta, e poi questo lungo giro di campo a raccogliere le sciarpe, a mandare baci, a trattenere le lacrime a stento. Da film anche l'addio di Inzaghi al Milan, anche in questo caso gol vittoria, gol partita, ultima vittoria data da Inzaghi al Milan. Al Milan salutavano in moltissimi. Milano si ritrova per le mani due squadre da rifondare. Insomma, abbiamo vissuto una domenica intensa, piena di emozioni, un po' fiabesca per chi vuol credere alle favole. GR24, ben ritrovati. Alle 13:16 minuti, nella prima parte abbiamo parlato delle borse a picco, sui risultati delle elezioni in Germania e sullo stallo della Grecia, e in occasione della relazione annuale il presidente della Consob Vegas ha messo in guardia la dittatura dello spread, ha detto vanifica la democrazia. E poi abbiamo parlato dell'inflazione stabile ad aprile, in un anno però il prezzo della benzina è volato addirittura del 21%. Allarme terrorismo, almeno 400 gli obiettivi sensibili a rischio, secondo il ministro dell'Interno Cancellieri, che però dice non impiegheremo più militari in chiave antiterrorismo. Adesso le altre notizie. E prima di tutto andiamo in Germania, alle prese, come dicevamo, con la perdita di presa sull'elettorato da parte della cancelliera tedesca Merkel e del suo partito, sconfitto ieri in un importante Land in una elezione regionale. Andiamo in Germania con Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Quali sono le analisi che si fanno oggi sulla stampa tedesca e le conseguenze di questo voto, che è un piccolo terremoto anche per l'Europa? Beh, la sconfitta è stata pesante, perché il Land del Nord Reno-Vestfalia, come avete accennato, è uno dei più grandi, ci vive quasi un quarto della popolazione tedesca, rappresenta un quinto dell'economia della Germania e quindi è un test importante. Negli ultimi due anni la signora Merkel ha inanellato una serie di sconfitte in queste elezioni regionali e ha sempre scelto di ignorarle. In questo caso sarà un po' più difficile per lei, anche perché ci avviciniamo sempre di più alle elezioni politiche che saranno poi nel 2013. Molti fattori locali hanno influito sul voto, non ultimo la popolarità del candidato socialdemocratico e l'impopolarità invece del candidato della signora Merkel. Però senza dubbio un campanello d'allarme importante. Direi che è prematuro vederlo come un inizio della fine della signora Merkel, che resta decisamente il personaggio dominante nella scena politica tedesca, e non dimentichiamolo, gran parte della sua popolarità è proprio dovuta al fatto che lei ha scelto questa linea di austerità e questa linea dura nei confronti degli altri paesi europei indebitati. Bene, grazie. Allora anche a te Alessandro Merli per questa analisi da Berlino su quanto accaduto in Germania nelle ultime ore. E dalla Germania ci spostiamo in Grecia, perché ieri sembrava sul nascere un governo di coalizione, forse unica, ultima speranza per Atene di restare nell'euro. Oggi questa possibilità appare più in dubbio. Qui in studio con noi Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore. Buongiorno, ben ritrovato Vittorio. Buongiorno a voi. Sì, effettivamente la situazione sta diventando un rebus. La possibilità ad Atene di avere un governo a tre, quindi con Neodemocrazia di Antonis Samaras, che è il primo partito che ha vinto le elezioni appunto di domenica scorsa, e poi c'è stato il Partito Socialista di Evangelos Venizelos, i due partiti pro-Europa, che però insieme raggiungono appena 149 seggi su 150. 51. Le speranze erano che il terzo piccolo partito di Sinistra Democratica, di Futis Kouvelis, quindi un personaggio abbastanza vicino ai socialisti ma che pur non condivideva l'austerità così pesante, potesse con i suoi 19 seggi raggiungere appunto una maggioranza e portare almeno per un paio d'anni l'esecutivo greco alle elezioni prossime. Tutto questo però sembra svanire. A questo punto il tempo è entro giovedì, il presidente farà ancora un ulteriore tentativo, altrimenti si andrà al voto. Gli ultimi sondaggi però dicono cose contraddittorie, che i greci nella stragrande maggioranza, 70-80%, vogliono restare nell'euro, però nello stesso tempo non vogliono l'austerità. Questo è impossibile, perché per restare nell'euro e ottenere le tranche che i vari paesi, Unione Europea e Fondo Monetario, per i 130 miliardi che sono stati stanziati, bisogna rispettare appunto il memorandum. A questo punto però i sondaggi dicono che se si andasse al voto il primo partito della Grecia sarebbe proprio quello di Tsipras, cioè Syriza, la sinistra radicale, che diventerebbe primo partito, il che vuol dire che non accetterebbe l'austerità così come è stata finora proposta e chiederebbe, contando anche magari su nuovi scenari come appunto l'indebolimento della Merkel o il nuovo ingresso, il debutto europeo di Hollande, per avere una maggiore possibilità magari di avere più tempistica. Questo è l'azzardo di Tsipras. Tsipras in sostanza vuole vedere il bluff dell'Unione Europea e della possibile cacciata dall'euro. Non ci crede e chiede quindi possibilmente di avere una migliore possibilità di avere dell'austerity più flessibile, meno rigida. Bene, grazie, staremo a vedere. Grazie anche a Vittorio D'Aroldo intanto. E politica e mercati, sentite cosa accade ad uno dei protagonisti dei mercati finanziari, JP Morgan. Cadono le prime teste alla JP Morgan dopo la rivelazione della perdita di 2 miliardi di dollari a causa di scommesse sbagliate sui derivati. La banca d'affari americana licenzierà questa settimana 3 top manager, una donna e 2 uomini. La caduta più clamorosa è quella di Aina Drew, da 30 anni in JP Morgan e dal 2005 responsabile del risk management della divisione che ha registrato le perdite. Con lei si dimetteranno Achilles Macris, da Londra alla guida del desk che ha effettuato le scommesse andate male, e Javier Martín Artayo, uno dei manager dello staff di Macris. Con tutta probabilità perderà la sua posizione anche un quarto protagonista, Bruno Michael Eichlis, detto la balena di Londra, il trader inglese così potente da influenzare tutto il mercato del credit default swap. Il capo della banca, Jamie Dimon, ha definito la maxi perdita da 2 miliardi un terribile errore per il quale non ci sono scuse. La cacciata dei responsabili potrebbe non bastare, ora i soci temono il taglio del 50% dei bonus. Francesco Riccardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come dicevamo, la cancelliera tedesca Merkel sta parlando in questo momento a Berlino, ancora una sua dichiarazione dopo la sconfitta del suo partito ieri nell'elezione politica del Land Nordrhein-Westfalia. Dice la Merkel, il lavoro in Europa non è toccato dal risultato di questo voto, dunque fa intendere che la sua politica di austerity andrà avanti in Germania ma anche in Europa. Ancora una notizia che ha a che fare con i mercati, in questo caso con una importante banca, la dichiarazione di Alessandro Profumo, neo presidente di Monte dei Paschi di Siena, a margine della relazione Consob. Certamente sì, è una banca solidissima, così Profumo ha risposto alla domanda se sia fiducioso sulla gestione della banca, al di là delle vicende giudiziarie che hanno investito in questi giorni il Monte dei Paschi di Siena. E ora ci spostiamo con la cronaca a Roma, in corso l'ispezione sui resti di Enrico De Pedis, boss della Manda della Magliana, sepolto a Sant'Apollinare nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, c'è una notizia, ci sarebbe un solo cadavere in buono stato riconducibile ad un uomo, questo secondo quanto riferito da un testimone, ciò che gli agenti della polizia scientifica avrebbero visto aprendo la bara di De Pedis, vestito con un abito blu con una cravatta, riferisce questo testimone che lavora all'Università Pontificia, che ha potuto assistere alle operazioni, dunque non ci sarebbero tracce di altri cadaveri. Le operazioni della polizia scientifica sono ancora in corso, stanno effettuando i rilievi nel cortile dopo aver trasportato la bara dall'interno della basilica, perché l'apertura del sarcofago avrebbe potuto far fuoriuscire esalazioni e dunque erano necessarie alcune precauzioni di ordine medico-sanitario. Per quanto riguarda lo spostamento della bara, questo potrebbe avvenire in un secondo momento, nei prossimi giorni probabilmente verrà trasferita al cimitero di Prima Porta. All'interno sono presenti ancora il procuratore aggiunto Giancarlo Leopoldo, il capo della squadra mobile di Roma Vittorio Rizzi, legali dei familiari di De Petris, Lorenzo Redogni e Maurizio Prioreschi e numerosi agenti della scientifica. C'è anche il fratello di Emanuela che ha parlato poco prima di entrare, possiamo sentirlo? È una cosa importante secondo me, che ci sia l'inizio di una collaborazione tra Vaticano e magistratura nella massima trasparenza. Finalmente. Mi auguro. Questo è il primo cosa che non è avvenuto negli anni precedenti. E ricordiamo che il nome di Emanuele Orlandi, scomparsa in circostanze ancora ignote il 22 giugno dell'83, quello di De Petris, boss della Magliana, sepolta a Santa Polinare dopo la sua uccisione in un agguato il 2 febbraio del 90, vennero accostati da una telefonata che arrivò nel 2005 alla trasmissione Chi l'ha visto, in cui un uomo suggerì di andare a vedere chi era sepolto lì, e successivamente anche la testimonianza di Sabrina Minardi che nel 2008... la ex compagna del boss della Magliana indicò in De Petris colui che avrebbe eseguito materialmente il sequestro della cittadina vaticana, di cui poi la decisione della Procura di Roma di disporre l'apertura e lo spostamento della tomba. Dunque ripetiamo la notizia, per ora che deve essere ancora confermata da fonti ufficiali, riferisce di un solo cadavere uomo presente nella tomba. Ovviamente si tratterà anche di verificare se si tratta di quello di De Petris. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Adesso con la cronaca veniamo a Milano. Furto in pieno centro ieri sera, una rapina da 10 milioni di euro ai danni della famiglia di gioiellieri Buccellati. Ad agire sarebbero stati due ladri su due auto che hanno tamponato l'auto della moglie di uno dei titolari della casa d'alta gioielleria. Hanno preso un trolley con i gioielli e anche oggetti d'antiquariato che la donna teneva al suo fianco. Il fatto è avvenuto ieri sera alle 21. Vittima del furto è Rosa Maria Buccellati, 52 anni, stava rientrando a casa a bordo della sua BMW in via Durini dopo aver partecipato ad una fiera dell'antiquariato. E ora andiamo al Salone del Libro di Torino, ci colleghiamo con la nostra inviata Alessandra Tedesco. Oggi però si parla soprattutto di premi letterari, è così Alessandra? E sì, parliamo di premi letterari perché qui al Salone del Libro sono stati festeggiati 50 anni del premio Campiello. Alcuni vincitori del premio negli anni scorsi hanno raccontato che cosa ha rappresentato per loro. Sentiamo Michela Murgia, Campiello nel 2010. Un'esperienza umana estremamente qualificante, a prescindere dalle vittorie e dalle sconfitte. Perché incontri le persone, perché è un premio di persone, non perché solo i giurati cambiano in 300 ogni anno, ma perché anche gli imprenditori ti accolgono come se fossi un amico in visita. Ma al Salone è stato festeggiato un altro compleanno prestigioso, quello del premio Calvino, un premio unico nel suo genere, visto che assegna un riconoscimento ad un manoscritto inedito. Da qui il passo alla pubblicazione è spesso breve. Vincitrice del Calvino è stata per esempio Maria Pia Veladiano. Il suo romanzo è stato poi pubblicato da Einaudi ed è arrivato secondo allo Strega. Altro premio celebrato è il Mondello, che qui al Salone ha consegnato il riconoscimento all'americana Elizabeth Strout, vincitrice della sezione Autore straniero. Peccato invece per il premio Salone del Libro, creato l'anno scorso e vinto da Amos Oz, scelto dai visitatori della manifestazione. Quest'anno non si è fatto per mancanza di fondi. E qui dal Salone di Torino è tutto, la linea allo studio. Grazie Alessandra Schepisi, è tutto, Alessandra Tedesco, è tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo a Italia in Controluce. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.